Italia in controluce. Oggi, 25 aprile, 66esimo anniversario della liberazione, Italia in controluce racconta un pezzo di storia italiana dimenticata. Villa Triste, la chiamavano così, una palazzina di proprietà della famiglia Fossati a Milano, in via Paolo Uccello. Nel 1944 venne requisita dal reparto speciale di polizia guidato da Pietro Koch. Centinaia di partigiani e antifascisti sono passati da Villa Triste, detenuti, torturati, alcuni uccisi, altri trasferiti nei campi di concentramento. 66 anni dopo, i cancelli di Villa Triste si sono aperti ad un'orazione civile sulla resistenza. È il Teatro Civile di Daniele Biacchessi. Dal 1943 al 1945, l'Italia occupata dai nazisti diventa un enorme mattatoio, dove gli oppositori al regime fascista vengono arrestati legalmente, trasferiti in ville tristi come questa, trasferiti dentro nelle cantine, pensioni anonime come la pensione Oltremare, la pensione Iaccarino a Roma, trasformati in luoghi di detenzione come il palazzo di Via Rovello, dove la tortura è una pratica sistematica per i prigionieri. La carovana della morte. Il reparto speciale di polizia guidato da Pietro Koch. Scivola lungo l'Italia come serpe affamata. Cerca uomini e donne con idee diverse per placare la sete di sangue. Il reparto speciale di polizia entra nelle loro case. Li stana come animali braccati. E incatena le loro mani. Mani grosse, non affusolate e ben curate, come quelle degli aguzzini. Ma mani da macellaie enormi, oppure mani di contadini rugose e screpolate, oppure mani di meccanici sempre un po' macchiate d'olio esausto, oppure mani di donne giovani, abituate a tirar su tre figli, mani di lavoratori che non hanno orario, se non seguire la luce del giorno e l'oscurità della notte. Mani callose di falegname. E poi ancora mani di elettricisti con i capelli lunghi tenuti legati dietro la testa. O mani di operai e manovali, capaci di alzare 150 kg senza la paura di cadere sfiniti. Ho ancora mani di carta vetrata con la polvere, che ormai è tutt'uno con la pelle. Sono le mani dei minatori di pietra che feriscono talvolta. E tuttavia non fanno male, come le bastonate che schioccano quei vigliacchi in guanti neri o guanti bianchi laggiù, là dietro. Sotto le cantine di questa villa. Aguzzini le cui mani sotto la pregiata stoffa che le nasconde sono rosse di sangue altrui, incancrenite di dolore appiccicato per sempre. E una volta che ha completato il carico, la carovana della morte, il reparto speciale di polizia, riprende il suo viaggio per giungere alla destinazione finale, che qui a Milano era Villa Triste. Uomini, donne, ragazzi, gente felice lasciata in balia di aguzzini feroci, passano da Villa Triste in soli 45 giorni. Non tutti vengono uccisi. Cosa vedono i loro occhi? Quanta voglia di campare può esserci per gente che ha visto esseri umani tramutarsi in demoni e facce deformate dalle urla del comando? quale orizzonte puoi seguire se tu hai sentito uomini e ragazzi provare sulla pelle ancora liscia la cancrena del bastone, il gemito del collo spezzato, eh? Il fuoco dell'inferno divora la speranza di un futuro, il terrore fa prigionere gli occhi. Apri gli orecchi, quel che sto per dirti è veramente troppo forte, e se vuoi andartene fallo ora, è la tua ultima occasione. Per dirti tutto quello che ti ho detto questa cosa, non ho voluto usare mezze parole, perché se dici di appartenere al genere umano è ora di illuminare le coscienze con il sole, è ora di gridare, agire, fare un gran baccano. Chino il capo come uomo abbattuto da altro uomo e non chiedo perdono per il boia degli abissi. Taccio, ma non sarò mai domo. E griderò con tutta la mia rabbia e con gli occhi vergognosi e bassi che ormai il tempo della giustizia è tramontato e questo è il tempo della verità e dei grandi passi. Grazie.